se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. È possibile stabilire un indicatore della felicità media, anzi della felicità interna lorda? Felicità interna lorda è un concetto che risale agli anni 70. Fu uno stato molto particolare, un piccolo stato himalayano, il Bhutan. Ricordo che fu uno dei territori in cui era proibito il televisore, non c'era televisione nel Bhutan. Tanti anni fa mi occupai di questo stato in cui non c'erano le televisioni e vivevano felicemente senza televisione. Beh, il re del Bhutan negli anni 70 decise di creare un sistema economico basato invece che sul PIL, il prodotto interno lordo, sul FIL, che è la felicità interna lorda, cioè stabilire alcuni indicatori per cui sia possibile creare una sorta di motivazione o di situazione o di condizione per cui ci sia una felicità interna lorda. Noi potremmo chiedercelo, più tardi vi darò delle delucidazioni, questo è un argomento che è tornato attualissimo, se ne discuterà domani al Festa dell'Economia di Trento, quindi con il primo ministro del Bhutan, il luogo fuori dal mondo, immaginate questo territorio himalayano dove vivono senza televisione, dove vivono in maniera molto lontana dalla nostra civilizzazione, quindi in maniera del tutto irreale, ma si pongono il problema dal punto di vista proprio del governo, dello Stato, quale possa essere la felicità interna lorda e quindi stabilire delle condizioni di felicità. Guardate, oggi parlare di felicità interna lorda o di condizioni di felicità è un tema difficilissimo, me ne sono accorto in una delle ultime riunioni di condominio. Io provai, guardate, un esempio banalissimo lo fa capire, provai ad azzardare con i miei colleghi condomini un tentativo che hanno fatto molte persone a Roma che abitano in palazzi inizio 900, fine 800, che hanno dei grandissimi terrazzoni condominiali, tipo quello della giornata particolare, dove Sophia Loren stendeva i panni mentre c'era la parata di Hitler che è trionfante. Sfilava a Roma con fanfare varie insieme a Mastroianni, che era un omosessuale, si nascondeva lì e via dicendo. Una bellissima sequenza in questi grandi terrazzi in cui si vede tutta Roma. Beh, molte persone, questi terrazzi inutilizzati, che nessuno va più a stendere i panni nel terrazzo condominiale, sono solo le parabole e le antenne, hanno cominciato a consorziarsi fra inquilini e a comprarsi delle sedioline, degli ombrellini, usando il vecchio locale dei cassoni dell'acqua, hanno creato una possibilità di felicità per tutti, cioè questo terrazzo si fa una lista e a turno chi vuole la sera ci invita amici, ci cucina, ci fa festa, ci si stravacca al chiaro di luna, ci racconta storie romantiche alla moglie, alla fidanzata, all'amica di turno e via dicendo. Non costerebbe nulla, eppure mi hanno guardato i condomini come se avessi detto un'eresia. Ma come? Cosa vuol dire? Cosa vogliamo fare? Il bar sul terrazzo condominiale? Ma siamo pazzi? Poi la gente fa rumore. Ma piuttosto affittiamo questi locali, facciamoci un magazzino, dividiamoci le poche centinaia di euro annuali per le spese condominiali. E mi rendevo conto che fare in una riunione condominio una proposta legata a una felicità gratuita era un'eresia, era qualcosa che non esisteva assolutamente nella percezione di queste persone. Beh, guardate quante occasioni avremmo ogni giorno per essere felici, occasioni gratuite, occasioni che costerebbero soltanto un minimo di organizzazione. Come ci organizziamo per fare la spesa in un luogo dove costi meno, ci sia un rapporto qualità-prezzo maggiore, dove ci organizziamo per incontrare persone che ci sia utile incontrare e vedere, come ci organizziamo per fluidificare gli impegni della nostra giornata, potremmo organizzarci semplicemente, gratuitamente, per essere felici. Per me la felicità è fare sesso tutti i giorni. Io in questo periodo sono felice perché ho conosciuto una persona, un ragazzo che mi sta facendo sognare. La felicità viene dall'esterno. Se non avessi incontrato delle persone che mi avessero voluto bene gratuitamente, perché a loro volta avevano incontrato il senso della vita, io non sarei felice. E la felicità per me è una frase di Shelley. Beauty is truth, truth is beauty. La bellezza è verità, la verità è bellezza. Certo, se uno è bruttarello potrebbe essere un po' meno felice di quanto viene espresso in questa limpida frase. La felicità cos'è? La felicità è un cucciolo caldo, dice qualcuno. La felicità è semplicemente incontrare un sorriso gratuito in una persona. La felicità è ricevere un messaggio inaspettato. La felicità è accorgersi improvvisamente che un rancore, un motivo di attrito con delle persone si discioglie come neve al sole. La felicità è vedere felici le persone a cui vogliamo bene. La felicità è non avere problemi di gestione nell'ambiente lavoro. La felicità è fatta di tante piccole cose. È possibile stabilire una formula, un'equazione, un algoritmo della felicità attraverso il quale noi possiamo stabilire quanto sia possibile creare delle situazioni di felicità. Guardate, felicità è un concetto che apparentemente tutti inseguiamo, che sembra che tutti lo accarezziamo, che siamo così intenti a costruire la nostra felicità, ma ogni giorno quante sono le azioni che facciamo per essere felici? Noi facciamo azioni per guadagnare soldi, per mantenere prestigio nel luogo di lavoro, per mettere in luce verso i nostri superiori, per fluidificare le nostre relazioni, per onorare tutte le voci della nostra agenda, per fare la spesa, per pagare i debiti, per pagare i mutui, per riuscire ad avere tempo per andare al cinema, avere tempo per poter fare alcune cose. Ma quando razionalmente, lucidamente diciamo faccio questo perché voglio essere felice, abbiamo quasi paura di pronunciare questa parola, abbiamo quasi paura di confessare a noi stessi che la felicità è un nostro diritto. 800 24 00 24. Volevo dire che la felicità consiste in qualcosa che si ha dentro, indipendentemente dal tipo di lavoro o da quello che si riesce a realizzare a livello personale, e questo dipende anche dai valori che ciascuno ha. Per me la felicità è stato un attimo quando inaspettatamente ho fatto un risultato pazzesco in una regata che non me l'aspettavo. Abbiamo fatto terzi al 1000 vele di Genova ed ero convinto di mai più, erano le prime regate, quindi, e quando ho visto terzi ho cominciato a gridare, a saltare, che sembrava che avessi fatto il primo assoluto. Ero più felice del primo. Avete timore, avete vergogna, titubate, vedo che c'è una sorta di immobilismo nelle telefonate. 800 24 00 24, ma non devo mica chiedervelo per cortesia. Mi fareste felici se voi telefonaste questa mattina e riusciste a dirmi cosa state facendo in questo momento per essere felici, oppure fate qualcosa per essere felici e poi raccontatemelo. Essere felici, ma voi direte, non ci sono le circostanze oggettive, non basta che io faccia qualcosa per essere felice, occorre che tutto un sistema integrato di relazioni, di azioni, di situazioni si muova in direzione della mia felicità. Ma possono esistere spazi residuali di felicità che voi non conoscete. Analizzate un attimo tutte le vostre possibili e immaginabili forme per essere felici. Non è detto che la felicità sia semplicemente ossessivamente relegata in quella cosa, in quella persona, in quell'oggetto, in quell'obiettivo da raggiungere, senza il quale voi non pensate che sia possibile essere felici. Avrete sicuramente nel ventaglio delle vostre conoscenze, delle vostre occasioni, dei luoghi che potete visitare. Fermate la macchina, scendete un attimo, fatevi un bel respiro, già significa essere felici. Condividete con me questo momento di ricerca della felicità o di spudorata dichiarazione della volontà di essere felici. Oggi è una bellissima giornata, c'è un sole stupendo, perché non si dovrebbe essere felici, a meno che non si abbia un male incurabile, un lutto insanabile, una occasione di mestizia oggettivamente, ma anche oggettivamente percepibile. Ma anche in questo caso io vorrei che si trovasse un brandello, un residuo di possibilità di essere felici. Cominciamo a selezionare, visto che voi non volete esprimervi, quelli che potrebbero essere alcuni indicatori della qualità della vita. Vediamo se attraverso questa griglia di indicatori riusciamo a individuare delle forme, delle piccole fessure in cui tuffarsi a pesce, buttarsi dentro e trovare un attimo, una piccola osi, un ruscelletto, una pozzanghera di felicità in cui poter sguazzare anche soltanto qualche istante. Elenco di alcuni degli indicatori della qualità della vita più diffusi: numero di ore di lavoro annuali, numero di giorni di ferie, tasso di disoccupazione, tasso di proprietà della prima o della seconda casa, partecipazione politica dei cittadini e accesso al voto, rispetto dei diritti umani, libertà di stampa, accesso alla giustizia. Osservate quanto gli indicatori della felicità in realtà siano inversamente proporzionali o ordinati in senso contrario rispetto a quelle che sono le grandi istanze di felicità. La libertà di pensiero, la libertà di espressione, vero, sono valori intoccabili, sacri valori ai quali tutti teniamo, ma non sono il motivo della nostra felicità individuale. Vanno rispettati, vanno difesi, bisogna farsi passare sopra dai carri armati per permettere che non vengano violati i diritti sacri di esprimersi, di avere la libertà di pensiero, di espressione e via dicendo. Siamo d'accordo su questo, ma non sono le cose che ci danno la felicità individuale. La felicità individuale ce la dà una sorpresa che si incontra svoltando l'angolo. La felicità individuale ce la dà improvvisamente un relax inaspettato. La felicità dietro l'angolo ce la dà qualcosa che non ci aspettavamo, che non immaginavamo, qualcosa che trovavamo al di sopra della nostra possibilità di percepire momenti di felicità. Quali sono le possibilità minime, minimali, ma immense per la nostra soddisfazione personale per essere felici? Non mi dite che non ci siano più guerre nel mondo, è vero, giusto, sacrosanto. Non mi dite che non ci sia più fame nel mondo, vero, giusto, sacrosanto. Voi pensate che io questa notte ho passato parte della notte dentro un hotel fatto di spazzatura. Voi direte che c'entra. Guardate, ho visitato i grandi immondezzai alla periferia di Nairobi, gli slum dove ci sono dentro bambini che sguazzano nei liquami e tutto il giorno si scavano gallerie dentro gli immondezzai. Alla periferia di Città del Messico ho visto i pepenadores, che sono intere popolazioni che vivono in enormi immondezzai, dove anche lì hanno costruito grattacieli, città, e tutto il giorno lo passano a razzolare in mezzo all'immondizia della città e classificare alcune cose che ancora hanno un valore di mercato. Quello che non vendono si mangiano i rifiuti. Beh, al centro di Roma questa notte, accanto a Castel Sant'Angelo, uno strafighetto artista, quello che aveva fatto il Trash People, quell'esercito di robot fatti di lattine e di pezzi di metallo presi dagli immondezzai, che una mattina mi sorprese a Piazza del Popolo, ha costruito un hotel fatto di spazzatura. Sono andato a dormirci stanotte, è un posto strafighetto, c'erano signori con tacchi a spillo che affondavano nei liquami, una grande modella dal passato fulgido, questa notte anche lei ci ha passato la notte dentro bellissimi lettini, signore, signori patinati, artisti, creativi, avevano il frisson, il grande brivido di vivere nella spazzatura al centro della città eterna. Beh, loro erano felici così, ma per altri quello potrebbe essere l'occasione di maledizione, il segno intangibile di essere nati dalla parte sbagliata, nel momento sbagliato e nel luogo sbagliato. Tasso di divorzi, tasso di ragazze madri, tasso di delitti, tasso aree verdi, numero di abitanti per chilometro quadrato, frequenza e diffusione di trasporto pubblico, qualità del clima, longevità, aspettativa di vita, tasso di uso antidepressivi, frequenze in biblioteche e musei, numero di libri venduti. Io sono molto felice quando vado in un museo, sono molto felice quando vado a vedere una mostra, quando ci vado in orari antitetici ai grandi flussi. Ho provato domenica ad andare in questo luogo fantastico e meraviglioso che è il Maxi a Roma, c'era una fila interminabile. Ci andrò un giorno quando non ci saranno più burini, quando sarò solo o quando potrò andarci soltanto con una o due persone per dividere la felicità di stare in un luogo pieno di cose belle, cose che comunque sono segnate da un intento artistico. Vi avevo detto che domani al Festa dell'Economia di Trento ci sarà il primo ministro del Bhutan che parlerà appunto di questo tema della felicità interna lorda, e con lui parlerà Andrea Brandolini, che è un economista del Servizio Studi di Struttura Economica e Finanziaria della Banca d'Italia. Andrea Brandolini, buongiorno. Buongiorno. Noi stiamo cercando disperatamente e faticosamente di portare i nostri ascoltatori sul tema della felicità individuale. Ma è un concetto così difficile da esprimere, perché c'è tanto pudore nel proclamare che anche uno Stato può occuparsi della felicità dei suoi cittadini? Beh, innanzitutto perché è difficile da misurare, e poi il secondo punto è che non tutti forse sono d'accordo che gli Stati debbano occuparsi della felicità, essendo una cosa individuale. Quindi io posso più esprimermi sul primo punto riguardo a come misurare la felicità, che è un qualche cosa di cui si discute molto tra gli economisti e gli scienziati sociali in genere. Lei è d'accordo sul fatto che i grandi temi, che sono le istanze etiche, morali, idealistiche che muovono l'umanità, in realtà non sono quelli che ci danno felicità individuale immediata e pronta? Io non sono del tutto d'accordo. Sì, ma sono contento di questo. questo, però il punto è che qui la risposta è del tutto individuale. Io ho ascoltato un po' della trasmissione, un po' quello che hanno detto gli ascoltatori, mi ha colpito una differenza notevole tra due ascoltatori. Un ascoltatore ha detto testualmente: la felicità è qualcosa di esterno che viene da fuori di noi, e un'ascoltatrice invece, se fosse una donna, ha detto qualcosa che sia dentro. Allora, sono esattamente una visione antitetica della felicità, riassunti in poche parole, che danno il senso di quanto sia difficile e complesso pretendere di misurare un fenomeno come la felicità, di come ci siano, sia inerentemente multidimensionale, dalle molte facce, ed è questo che lo rende così complesso. Che è la chiave della nostra esistenza, poi in realtà noi cresciamo, studiamo, ci coltiviamo, anche se non lo diciamo, anche se qualcosa di indicibile, ma perché vorremmo forse essere felici, non soltanto perché vogliamo propagarci, mantenerci, essere brillantemente affermati nel mondo per la nostra professione, per la nostra capacità di relazionarci, va dicendo. Se tutto questo potesse essere assunto in un termine, è perché alla fine vogliamo essere felici. Sì. In Bhutan come lo fanno? Come misurano in Bhutan la felicità? Come sono risolti loro il problema? Questo è importante, però le voglio fare subito una prima distinzione. In Bhutan hanno creato questo indicatore che si chiama indicatore Gross National Happiness, che felicità nazionale lorda, che è visto in alternativa al prodotto interno lordo nella valutazione della politica economica e sociale bhutanese, ed è un indicatore multidimensionale, come dicevo, cioè entrano 9 dimensioni nella sua costituzione. Quindi spesso si tende a pensare alla felicità nel mondo occidentale come la soddisfazione con la propria vita personale, non nel momento preciso in cui viene chiesto, ma è complessivamente sono soddisfatto della mia vita personale. È uno stato buddista, questo non dobbiamo dimenticarlo, esattamente, è una visione diversa. È lo stato buddista, infatti volevo dirle, però attenzione, lo stato buddista significa che le 9 componenti della felicità che loro considerano vengono declinate in maniera legata alle tradizioni e agli usi di quel paese e al buddismo, che è la religione di quel paese. Però questo non vuol dire che le 9 dimensioni non abbiano una rilevanza internazionale universale. Questo è un punto importante. Le faccio un esempio. Le 9 dimensioni, le faccio proprio l'elenco, sono: il primo, il benessere psicologico; la seconda, la salute; il terzo, la cultura; il quarto, l'ecologia, quindi l'ambiente in cui uno vive; il quinto, la vitalità della propria comunità; poi c'è lo standard di vita, inteso come standard di vita materiale; i temi legati all'istruzione, l'uso del tempo e la good governance, quindi il buon governo della società in cui uno vive. Sono 9 dimensioni che potremmo sottoscrivere in qualsiasi momento della storia, in qualsiasi parte del mondo. Il punto è come ciascuna di queste dimensioni viene misurata con degli indicatori in maniera tale da poter esercitare la politica economica. Melog 2.0. Ritengo che l'equazione secondo la quale possiamo essere felici solo se consumiamo sia veramente devastante, sia quella che sta conducendo alla distruzione del pianeta. Io penso che la felicità sia un piacevolissimo egoismo. Io ammetto di essere felice, in primo luogo, quando sto con mia figlia, perché mi piace stare con lei. E in secondo luogo, ad essere molto sincero, siccome non sono un uomo molto fedele, sono felice quando sto con una donna. È molto semplice il mio senso della felicità, forse è sillogico, ma è questo. Felicissimo, anche semplicissimo da capire, anche molto condivisibile. 800240024 questa mattina stiamo cercando di stabilire la scala dei valori, degli indicatori della felicità, per stabilire la felicità media, prodotto di felicità interna lorda. La felicità interna lorda è un sistema di misurazione della felicità inaugurato negli anni 70 allo stato himalayano del Bhutan. Oggi stiamo vedendo se noi possiamo stabilire anche noi una sorta di criterio, di parametro di felicità interna lorda. Vediamo Michela. Michela, buongiorno. Buongiorno. Oh, vedo, finalmente sono scatenati gli ascoltatori. Stabiliamo dei parametri, facciamo da 1 a 10. Cominciamo. Lei questa mattina vedo che si sta preparando un momento di felicità. Quanto vale nella sua scala dei valori? Beh, in questo momento 10, cioè non che gli altri valgano di meno, perché... se è tutto 10 non sei mai felici. Mi dia un valore giusto, equo, non ipotetico o paradossale. No, ma non... È 10. 9, 8. 8, vai, facciamo 8. 8 mi sembra giusto. Cosa fa per avere 8 di felicità questa mattina? Allora, partiamo comunque dal presupposto che il mio valore di felicità standard è piuttosto alto, perché sono una persona abbastanza fortunata, mi ritengo. Su quanto viaggia? Ma viaggio sul 7,5 comunque, quindi è poca cosa. Un 10. Cosa? Dico, è poca cosa avere 8 allora questa mattina, se 7,5 la sua media. Io mi ero buttata sul 10, perché in realtà io, diciamo, sono disoccupata a causa Gelmini per quest'anno, quindi ho accudito i miei figli tutto l'anno. E lavorando mio marito molto, i miei spazi tutti per me sono stati veramente ridotti all'osso, quindi oggi mi concedo una mattinata tutta per me, vado a vedere lo spettacolo di un'amica, diciamo che è un 10 proprio nell'economia dello spazio per me. Quindi lei ha smollato i figli, ha mollato il marito e va a vedere una matinée di una sua amica. Perfetto. E questo lo considera, diciamo, quasi il culmine della felicità. In questo momento è uno spazio per me che è tipo ossigeno. Va bene, la sento che è contenta, anche se c'è un vocio di ragazzini in sottofondo che mi fa pensare che ancora è in zona 7, quindi si allontani velocemente e vada a godersi il suo 8,5. No, sono arrivato allo spettacolo, perché lo spettacolo è dentro una scuola, è una regista che lavora con le scuole, quindi sono appena arrivata. Allora è masochismo puro la sua felicità, scusi, lascia i bambini per andare a vedere la recita di altri bambini. Ma a me il teatro piace, il teatro con i bambini piace, comunque piace il teatro con i bambini, è una parodia di teatro, è la velleità delle maestre e delle insegnanti fare teatro con i bambini. Vabbè, non apriamo un altro file. No, non apriamo un altro. Ma lei, guardi, io ho un profondo rispetto delle felicità altrui e ho una grande ammirazione e anche una grande invidia, quindi sono con lei. Stefano. Salve, buona giornata. A quanto sta lei? Ma in questo momento penso 7,5-8 anch'io, direi. Sono normalmente abbastanza positivo nel guardare le cose. Io ho telefonato perché lei, ma raccontando quello che ha fatto stanotte, penso sia vero, non so se... Beh certo, guardi, se va sul mio profilo Facebook ci sono le foto, io che dormo nell'immondezzaio fighetto. Ecco, lì proprio la parola immondezzaio mi ha aperto un file nella mia memoria invece molto particolare. Io nel 98 trascorsi un mese a Luanda, in Angola, nella Lixeira, che vuol dire immondezzaio in portoghese, dove i salesiani hanno una missione, e di ritorno da quel mese feci un'esperienza da volontario con il VIS, una ONG. Di ritorno da quell'esperienza scrissi un pezzo che si intitolava Incontrare Dio all'inferno, perché in uno dei posti, fra quelli che ha nominato lei prima, più brutti del pianeta. E ma dov'è la felicità in questo? Nei ragazzi angolani, una cosa che mi impressionò enormemente, non avevano nulla, ma cantavano, giocavano, e non erano cretini, erano sereni. Perché il livello di riferimento era molto basico rispetto al nostro. Anch'io l'ho visto, i ragazzini degli immondezzai erano contenti quando trovavano finalmente un po' di rame o qualcosa che poteva avere un buon prezzo nel mercato. Ma non era solo, non si può materializzare così, perché quelli erano proprio sereni, avevano dei rapporti limpidi fra di loro. Cioè io vidi una schiettezza di rapporti, una serenità di rapporti che da europeo con i miei complessi le dava felicità. Mi aiutò a capire che forse la felicità può stare altrove. Di fondo per me la felicità è sentirmi è uno sguardo verso il futuro sereno, sapere che comunque sono amato. Io ci metto anche un discorso di fede, per me la felicità è sentirmi amato da Gesù Cristo e stare in pace. Per lei, sono contento per lei, è un motivo di felicità senz'altro, lo mettiamo nella nostra scala dei motivi di felicità. Andrea Brandolini, mi ero interrotto con lei, economista del servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, domani incontrerà il primo ministro del Bhutan sul tema della felicità interna lorda. Un commento a queste prime telefonate di indicatori ipotetici di felicità individuale? Due commenti. Uno, ci si conferma quello che ci dicevamo prima, l'enorme varietà delle visioni che verranno sul concetto di felicità. Sull'economia è più facile stabilire valori certi, vero? Va essere con cauto dopo quello che è successo nella crisi finanziaria recente sul fissare valori certi. Comunque, battuta a parte. La seconda cosa che mi sembra importante dell'ultima telefonata riguardo all'esperienza dell'immondezzaio in Africa, che è importante per chi come me, come economista, affronta il problema della felicità dal punto di vista di quello che la politica economica, sociale in generale può fare. Allora distinguerei tra quelli che sono aspetti soggettivi, la percezione che ciascuno ha della propria vita, e gli aspetti oggettivi. Ora, il fa- fatto di trovare delle persone serene in condizioni che sono oggettivamente disastrose non è per me motivo di soddisfazione. Ci dice quanto sia delicato cercare di massimizzare, ottimizzare il concetto di felicità. Se ci sono delle condizioni oggettive di degrado, quello è uno spazio dove io, come politico economico, devo intervenire. Quindi questo discorso per dire che cosa? Che c'è una fortissima tensione quando si parla di well-being e benessere o felicità tra quelle che sono le condizioni soggettive, le percezioni soggettive. Guardi, po' Brandolini, senza che nessuno si offenda, io farei una profonda distinzione. Lei domani parlerà col ministro del Bhutan in una etica e visione della vita buddista. Il signore che ha parlato è una visione della vita cristiana in cui, ahimè, la sofferenza fa parte di una promessa di felicità futura. Dal suo punto di vista, realizzando in pieno, ha ammesso e ha proclamato il suo atto di fede, quindi toccare gli umili, toccare il profondo dolore dell'umanità significa toccare persone che avranno sicuramente la felicità eterna, quindi ognuno la vede a seconda anche del sistema di riferimento in cui si muove. Assolutamente, però è qui che viene il punto. Io come Stato, usiamo un'espressione importante. Che dovrebbe essere laico, in realtà, il punto di vista dello Stato, possibilmente. Assolutamente, il punto di vista dello Stato non è determinare la felicità di tutti quanti, e questo è il punto. Io come Stato non devo dare felicità, devo creare le condizioni perché ciascuno possa responsabilmente determinare il proprio percorso di vita e essere felice. Ora, il fatto che quei bambini siano sereni nell'immondezzaio è positivo perché almeno non ci soffrono, ma se quei bambini fossero messi di fronte alla scelta tra vivere nell'immondezzaio o vivere in altre condizioni, non dico le nostre, altre condizioni, probabilmente sceglierebbero le altre condizioni, e questo è il punto fondamentale che io devo pormi. Io non posso accettare che, siccome sono non c'è bisogno di nulla di fare nulla. Non toccheremo con mano il problema dell'immigrazione diffusa, selvaggia e abnorme rispetto alle nostre possibilità di poterla contenere, gli occidentali benestanti tutto sommano. Se tutti fossero felici, se tutti vivessero felici negli immondezzai, nessuno si muoverebbe, starebbero tutti gli immondezzai e non avremmo navi di disperati che ogni tanto tentano di approdare in terre dove pensano ci sia la felicità. Esattamente. Quindi questo credo che sia un punto fondamentale. Cioè, spesso si tende a pensare che noi dovremmo noi, lo Stato, insomma, le organizzazioni che governano le nostre società debbano fornire la felicità. La felicità è composta, io questa è una visione molto seniana legata alle cose che Amartya Sen ha scritto e ci ha insegnato. Ci sono due dimensioni. Una, io le vedo tante dimensioni di quelle che lui chiama functioning, le cose che sono importanti fare, essere nella vita per le persone, dalla salute all'essere nutrite, all'essere nella propria comunità, accettati con rispetto, e c'è una seconda dimensione fondamentale che è quella della libertà individuale. Il benessere di una persona è la composizione di tutto questo, non è solo ciò che fa e che è ritiene importante fare, ma anche la possibilità di scegliere e di decidere autonomamente quello che può e vuole fare. Quindi una difficilissima alchimia fra situazioni oggettive di benessere e situazione ideale di possibilità di scegliere, comunque anche nell'ambito di queste occasioni, quella che è la formula più adatta, più consona alle proprie convinzioni, al proprio stato mentale, al proprio background culturale per essere felici. Melog 2.0 800 24 0024, stiamo cercando di stabilire una scala numerica per la nostra felicità, indicatori che ci determinano qual è il livello possibile della nostra felicità. A cosa attribuiamo un valore massimo di felicità? Io sono contento perché ho visto che questa mattina i nostri ascoltatori hanno una scala altissima di felicità media. Tutti viaggiano attorno al 7, 7 e mezzo, sono tutti felici, ma non vi rendete conto quanto renda me questo felice? Vedete, ho la voce quasi rotta alla commozione, ma sono in realtà dei pollini di piante che ci sono qui fuori dalla radio che mi devo respirare e poi naturalmente mi si ripresentano, come si dice in idioma romanesco, proprio mentre sto parlando. Claudia, mi aiuti? Eccomi. Pronto? Claudia. Sì, Claudia. No, mentre inghiotto il pulviscolo della pianta che ho respirato, mi dia la sua scala di valori della felicità. Allora, intanto sono abbastanza felice perché parlo a Radio 24. A quanto, che valore dà questa felicità? Da 1 a 10? Beh, 8. 8, va bene. Ecco, dai, quindi io ho un potenziale di 8 di felicità da poter distribuire. Ecco, benissimo. Ma per me la felicità è una cosa condensata in una poesia di Trilussa, il romanesco, che io non riesco no, a dire. No, non ci provi, non ci provi, sennò devo segarla. E mi darebbe 10 di felicità. Quindi usi i suoi riferimenti personali e individuali. Non bisogna mai appoggiarsi alle citazioni, meno possibile. Perché sono state fatte in altri tempi, in altri contesti. Trilussa, quando ha scritto la poesia, magari era ubriaco sotto un tavolino, era felice. E oggi lei non è in queste condizioni, quindi non la faccia sua. Mi dica un suo motivo di felicità. Io oggi stamattina sono felice perché vado a portare un bel po' di coperte che ho recuperato da una casa venduta. A dei poveri, vado a le portare porti? Un bel po' di coperte al canile. Ai cani? Ecco. Ma è estate, cani, che ci fanno i cani con le coperte? È vabbè, gliele porti l'inverno, scusa. Per questo inverno. Ma c'hanno il pelo i cani, non credo che abbiano bisogno di coperte. Non lo so, io non ho molta dimestichezza. Lei porta le coperte ai cani, questo la fa felice. Insomma, diciamo che è importante anche questo. Faccio questa piccola cosa. E quanto vale questo? Da 1 a 10? Vale 10. 10? Sì. Quindi oltre questo non c'è altro? Non c'è altro. Perché questa è una cosa veramente... Ma potrei portarlo anche ai poveri, potrei portarlo a qualcuno che ha bisogno, per carità. Quindi nell'altruismo trova il parametro più alto di sua felicità individuale. Nel fare la felicità di qualcuno fornendo strumenti di benessere. La riassumo male, ma forse è così. Di più debole di me, ecco. Va bene. E una felicità media quotidiana la cosa è data? Un 6,5, 7? Ma da tante piccole cose, ecco. Da piccole cose. Ripeto, non vorrei citare Trilussa, ma è un'ape che si posa sopra un fiore di rosa. Ecco, questa era... Ma lei chi è, l'ape o il fiore, scusi? Come? Lei è l'ape o il fiore? Perché può essere felice, no, il fiore, può essere... Io sono l'ape che sono felice se mi poso sopra il fiore. Ah, ecco. Allora, a tratti così, diciamo, incommensurabile questi episodi, ecco, di felicità, perché possono essere i più disparati, appunto, no? Dipende dalla cultura. Va bene, lasciamo la sua felicità cinofila e apistica. Caterina. Buongiorno a tutti. Cominciamo con i numeri però, Sì, allora... Felicità media sono... quant'è la sua felicità media? Ma intorno al 7. Beh, sono contento. Mi fa molto... Sono una grande invidia perché io vado dal meno 2 al 14 nell'arco di un istante. Oscilla. Sì. Chiaramente oscilla. Stamattina intorno al 7 perché appunto sto preparando del pane fatto in casa con il lievito naturale. Quindi diciamo tutto... cioè lei ha quell'alieno... verdastro terrificante, si chiama lievito madre nel frigorifero. Ma non è verdastro, è profumato e bianco di farina, perché ogni giorno lo curo dandogli appunto il nutrimento che gli serve per non diventare verdastro. Ma io lo so, io ho inseguito le genealogie di lieviti madri fra amiche, colleghi, parenti, c'è sempre questo blob che ogni tanto riappare a casa mia, che è lo stesso che avevo buttato via un mese prima, non so, è una sorta di essere alieno che perseguita la mia vita, quindi questo però le dà felicità. Sì, molto, molto, perché quando appunto dopo varie ore di attesa, di lievitazione e così via, riesco appunto a vedere nel forno un qualcosa che inizia ad alzarsi, si colora e poi riesco appunto a mangiare, mi dà grande felicità. Vabbè, lei vedere qualcosa che inizia ad alzarsi, si colora e poi riesce a mangiare, le dà 10 di felicità. È simbolicamente perfetto questa sua felicità. Grazie Caterina. Federico. Sì, salve, ciao. Io sto su, di solito sto tra un 4,5 e un 5 più. Oh, ecco, finalmente una persona normale, perché questa mattina questa esplosione di felicità io non la vedo quando giro, ma la vorrei vedere, ma se la vedessi non sarei felice forse. Allora, lei è su 4,5, quando oscilla da questo 4,5 diventa sufficienza o diventa estasi? Perfetto, che in realtà è il motivo per cui alla fine mi sono spinto a chiamare, nel senso che secondo me, cioè, la felicità, per come almeno intendo la state trattando stamattina, secondo me stiamo parlando di certi sprazzi, adesso non vorrei usare paroloni, di assoluto in cui... non so come dire, la nostra anima, il nostro occhio interiore, eccetera, vede qualcosa di assoluto, quel momento lì, quindi ci sono per fortuna, certo, innumerevoli momenti, però, cioè, per carità, io le chiamo le fugaci fessure nel grigiore quotidiano, poi ognuno gli dà un suo nome. Io sono molto d'accordo con una serie di cose sue stamattina, quindi mi fa piacere, per cui sono d'accordo con lei. Guarda, io sono radicalmente, naturalmente, fisiologicamente, geneticamente infelice, ma questo mi rende felice, perché quando sono felice sono proprio felicino molto, ecco. Ne abbiamo la consapevolezza, cioè noi comunque siamo assolutamente, come dire, in una condizione, tra parentesi, di infelicità. Dopodiché, come appunto diceva lei stamattina, ero d'accordo, tendiamo costantemente dal primo all'ultimo giorno della nostra vita verso una felicità che non si sa di cosa sia fatta. Però abbiamo pudore nell'ammetterlo, perché nessuno dice voglio essere felice. Però è brutto, perché in realtà io stavo dicendo proprio quello, che in realtà secondo me la felicità non è il punto dove noi alla fine della nostra vita, cioè noi alla fine quando arriveremo ci saremo resi conto. Ma saremo molto incazzati, penso, quando ci renderemo conto che stiamo per morire. No, perché ci saremmo resi conto che la felicità è stato fare la strada, non arrivare da qualche parte. La felicità è stata quello che abbiamo passato. Sì, a volte sì, a volte no. Grazie, comunque grazie. Ennio. Salve, buongiorno. Volevo solo dire che secondo me è difficile offrire dei parametri per raggiungere la felicità. L'ha detto il nostro economista fino adesso, è quasi impossibile, ma noi ci sforzeremo. Quasi impossibile, ma forse per un fatto connaturato alla felicità stessa, perché io la vedo come qualcosa di inaspettato, di gratuito, è qualcosa che quasi non ci meritiamo. Sono d'accordo, è meritata quando... la felicità. Quando arriva dice, ma perché proprio a me? Esatto, poi finisce subito. Finisce subito, ma ci capita qualcosa che non ci aspettiamo, non ci meritiamo, e quindi non è impossibile prevederla. Grande intuizione la sua. La felicità è tale quando la sentiamo immeritata. Quando, sì, ce l'aspetta, quando da qualcuno, da qualche situazione ci aspettiamo qualcosa, non è felicità. È come il giusto soldo per quello che siamo o abbiamo fatto. Sì, è l'infelicità dell'ammiraglio Nelson quando vinse a Trafalgar alla fine, perché è il suo obiettivo, ma l'obiettivo non è qualcosa che ci dà felicità. È qualcosa che noi sappiamo di dover raggiungere, quando la raggiungiamo l'abbiamo raggiunta e basta, non è un qualcosa che ci dà felicità, è un qualcosa che noi facciamo e diciamo vabbè, l'abbiamo fatta. Ecco, allora lei, quando gli sono accaduti questi immeritati sprazzi, a quanto è arrivato nel suo felicitometro? Diciamo che è arrivato fino a 8-9 quando per la strada uno mi ha regalato qualcosa. Lei aveva la mano tesa e una faccia pietosa? No, per questo ero felice, perché se avessi avuto la mano tesa e l'avessi ricevuta non sarei stato felice, avrei solo raggiunto un obiettivo. Va bene, è molto chiaro, è splendidamente consono con quello che mi aspettavo questa mattina, sarà per me una giornata felice, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog, 828 1111. Melog va in replica questa sera, alle 22. Melog 2.0